Friuli nel mondo, 170esima trasmissione dedicata agli emigrati, il quartetto di Cordenons. Vi portiamo oggi, cari amici radioascoltatori, il saluto della piccola patria friulana con la poesia scaturita dall'anima della sua gente attraverso le stupende villotte che il quartetto vocale Stella Alpina di Cordenons, composto da Adriano Turrin, Donato Marson, Ettore Travanuz e Sergio Mion, interpreta con profondo sentimento. È un quartetto di giovani, i quali, per un'intima soddisfazione e per la gioia degli altri, sanno egregiamente e lodevolmente conciliare il proprio lavoro quotidiano con la passione per il bel canto, passione che impone loro studio, disciplina e sacrificio. Ascoltate pertanto le villotte popolari Montagnutis, Oninine, Osso Istadea Confessami, Supa Valcialda, Cebielis Maninis ed infine In Cil e Ieune Stele di Tita Marzuttini e Luigi Cuoghi. Montagnutis, Montagnutis, ribassa ici. Faitum fregul di splendor. Oh. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.